gente qui tutta vedi uscir fuor di se stessa in applauso al tuo merito, o prode nomio. Ma il più signor mi manca, Tintorillo l'amore, il più bel della pompa, che goder pur furia la monte con. Torilla, or via, tu sola, con ciglio torvo e contumacio mai, troppo ostinato, un gran silenzio osservi. Che vuoi ch'io dica? Io più degli altri applaudo dell'invento valore all'alti gloria. Ciò de tua stima io assai, ma cerco l'amor tuo. No, non la farò. La conquista d'un cuore cupre del tempo, voler che ad un istante egli divenga amante, è un aborto voler di corta vita. E qual d'un gran baleno suo vita piombo a un punto poi svanita. Olà, se così, e posto dei credenzi li espumi le tazze.